fuggire via lontano, una chitarra in mano per inseguire un sogno chiamato punk rock. In giro per il mondo, in alcun ideale, la musica che suona tu non la puoi fermare. Ma c'è sempre una cosa che non potrai scordare, le tue radici saranno sempre qua. Una birra, risate, un calcio a pallone, musica, amici, la notte che va. Punk e ski, Rudy Zemmainov, questo è ciò che fa per me. Alla mano, al bar, per le strade di ogni città. Na na na na na.